Direi che possiamo iniziare intanto. È una piacevole serata primaverile, un po' calda, però non si decide sto tempo. Vi ringrazio di essere venuti qui, ringrazio soprattutto Stefania Lorandi, la dottoressa Lorandi, che è venuta questa sera a presentare appunto il catalogo Mater Salvatoris, che è il risultato e la presentazione di una mostra che ha avuto luogo appunto, si è conclusa qualche mese fa qui a Bolzano, presso il Museo del Tesoro del Duomo di Bolzano, e ripropone appunto con un'iconografia, un apparato, una descrizione completa le varie opere che forse potremmo anche conoscere meglio, almeno parlo a titolo personale, e per me è stata una scoperta, ecco, appunto vedere quello che è stato fatto. Purtroppo la mostra non l'ho vista, ma volentieri, e siamo molto contenti di ospitare questa presentazione, in particolare, lasciatemelo dire, di ospitare Stefania Lorandi, che abbiamo avuto il piacere già in altre occasioni di ascoltare e di capire e comprendere la sua preparazione e soprattutto anche la sua passione. Ecco, non da ultimo recentemente in una giornata del FAI ho potuto apprezzare la sua guida turistica, presso questo palazzo Toggenburg, e devo dire che è molto coinvolgente, ma soprattutto molto preparata. Ecco, è una critica dell'arte, quest'estate poi concluderà la sua carriera di studi con la laurea magistralis, quindi siamo contenti e speriamo anche di averla di nuovo con noi per altre iniziative, perché abbiamo bisogno anche di conoscere l'arte, e questa biblioteca in futuro nel polo bibliotecario cercherà di coltivarla maggiormente. Abbiamo anche ereditato e stiamo così custodendo e valorizzando anche la biblioteca Archeart, oltre che una nostra sezione particolare, quindi abbiamo bisogno di persone anche che ci diano una mano, degli stimoli e soprattutto un aiuto nel valorizzare questi libri, questo materiale, che sono particolarmente piacevoli e interessanti da sfogliare e da prendere in prestito. Ecco, io vi ringrazio, cedo subito la parola alla nostra ospite. Vi ricordo solo che una settimana sono dei giorni dedicati sempre all'arte, avremo poi la presentazione di una tesi che è stata premiata quest'anno, e questo sarà lunedì prossimo, quindi abbiamo iniziato una primavera molto più leggera e leggiadra rispetto ad altre tematiche, ma insomma la nostra biblioteca cerca di sempre di dare nuovi suggerimenti e nuove occasioni. Grazie Stefania. Valeria, grazie a te per la presentazione, e grazie anche a voi per essere qui questa sera. Dunque, come ha detto Valeria, la mostra si è tenuta al Museo del Tesoro del Duomo di Bolzano dal dicembre dell'anno scorso fino all'inizio di gennaio, e ha visto in mostra circa una cinquantina di opere, tutte incisioni, provenienti da una collezione privata di due coniugi di Cento. Cento è una città nel Ferrarese, è una città che è stata colpita dal terremoto nel 2012, il terremoto dell'Emilia, e ancora oggi purtroppo porta i segni di quel dramma. Molte sono ancora le chiese in stato così di abbandono, quindi dovranno essere ricostruite, anche il palazzo comunale e anche numerose case, per cui insomma noi abbiamo conosciuto queste persone in realtà attraverso un altro evento, che è stato la mostra del Guercino. La mostra che si è tenuta a Palazzo Mercantile nel dicembre del 2012, e che ha previsto così aveva uno scopo di solidarietà, cioè il ricavato sarebbe poi andato alla Pinacoteca di Cento, e questo è stato fatto con una cerimonia un anno dal terremoto, e quindi abbiamo portato giù il ricavato dei biglietti d'ingresso delle persone che hanno visitato la mostra. In quell'occasione, in particolare, due coniugi colpiti dal gesto hanno deciso in maniera molto davvero sorprendente, perché non capita spesso che collezionisti privati si espongano in questa maniera, di aprire la loro collezione artistica e di farcela vedere. In pratica ci hanno invitato a casa loro, a me che sono vicepresidente uscente in questo momento della cooperativa Thalia, e al presidente Bombonato, hanno deciso sì di farci vedere la loro casa, che in realtà è un museo su tre piani, Per cui immaginatevi il nostro stupore nell'entrare in questi ambienti e vedere che ogni centimetro delle pareti era ricoperto da quadri. E stiamo parlando di quadri del Guercino, inediti e studiati, cioè da alcuni studiosi certificati. Addirittura il primo affresco del Guercino realizzato all'età di 13 anni, che era stato strappato negli anni 80 dalla casa per cui l'aveva realizzato per problemi conservativi, e poi stampe, incisioni di Dürer, di Piranesi, cioè di artisti veramente importanti, oltre che sculture di Medardo Rosso, per cui bronzi, terracotte, che vanno dal 400 fino al periodo più recente, fino al 900. E la loro proposta è stata: questo è quello che abbiamo, decidete di fare delle mostre con delle tematiche e prendete quello che volete, scegliete quello che volete, ve le mettiamo a disposizione gratuitamente. L'unica cosa ovviamente era l'assicurazione, che doveva essere pagata, e il trasporto l'abbiamo fatto noi, per cui veramente delle persone di gran cuore. E effettivamente la prima mostra che abbiamo fatto è stata questa, anche perché è stata creata, diciamo, in un periodo relativamente breve, 2 mesi circa, che per fare una mostra è veramente poco, e siccome c'era l'occasione del Natale avevamo pensato a questo argomento, per cui incisioni che vanno dall'Annunciazione di Maria fino alla Natività di Gesù e poi anche il ritorno, diciamo, la nascita, eccetera, il ritorno la nascita di Gesù e vari momenti della sua vita, utilizzando proprio le incisioni, che effettivamente sono un tema un po' difficile, perché molto spesso c'è da dire che quando si entra in un museo e si guardano le sezioni dei gabinetti dei disegni e delle incisioni, sono forse le opere più difficili da apprezzare rispetto ai quadri, vuoi perché realizzate in bianco e nero, e vuoi perché spesso, diciamo, di difficile interpretazione o lettura, finché non si conosce la tecnica con cui sono realizzate. Ecco, diciamo che molto spesso vengono prediletti magari dipinti che sono forse più facili da apprezzare. E io stessa devo ammettere che mi sono avvicinata a questa tematica con la mostra, perché all'università sono è un po' una nicchia della storia dell'arte che non viene studiata in maniera molto approfondita, e per cui veramente ho scoperto questo mondo proprio attraverso questa mostra. La prima immagine che ho scelto è questa di Martin Schongauer. Schongauer è uno tra i primi artisti in Europa a realizzare appunto incisioni. Prima di parlarvi più, diciamo così, più del disegno, eccetera, vorrei un attimo spiegarvi quali sono le tecniche delle incisioni. In pratica, inizialmente le prime incisioni vengono fatte su legno, sono xilografie, e questa in realtà è una tecnica già sviluppata a partire dal VII secolo in Egitto, ma arriva in Europa solamente col 1300. La xilografia però non è un'incisione in incavo, cioè non va praticamente la lastra di legno non viene incisa, ma viene lavorata a rilievo. Tutte, bene o male, le tecniche incisorie che noi vedremo stasera sono invece incisioni a incavo, cioè a calcografie, dal greco kalkos, che significa rame, quindi realizzate soprattutto su lastre di rame, e graphein, che vuol dire appunto disegnare, scrivere. La lastra di rame era difficile da lavorare, se ci pensiamo, perché innanzitutto doveva essere preparata, lisciata, battuta, cioè per fare in modo che le parti che non sarebbero state incise rimanessero lisce durante l'inchiostratura e poi la stampa. E c'erano soprattutto diversi strumenti per poter lavorare la lastra. Uno tra questi è il bulino. I vari strumenti danno poi il nome alla tecnica incisoria, per cui il bulino era una specie di punteruolo, poteva avere il becco largo o il becco più stretto a seconda del risultato che si voleva ottenere, e pensate a appunto una lastra di rame che veniva inizialmente lisciata e poi lavorata con questo bulino per ottenere il disegno che si era pensato. Ovviamente gli artisti non andavano a lavorare direttamente sulla lastra, ma su un foglio molto spesso preparatorio. Quindi il disegno veniva pensato precedentemente, anche perché immaginate che una volta realizzato il disegno, difficilmente poteva essere poi cambiato sulla lastra, cioè non si potevano apportare molte modifiche al metallo. Per cui su un foglio, spesso come la tecnica dello spolvero, degli affreschi con i cartoni, su un foglio veniva realizzato il disegno, portato sulla lastra, veniva poi inciso lungo le linee principali, così si incidevano anche, si foravano praticamente, si forava la lastra e poi, tolto il foglio, venivano seguite queste linee. Ora, il lavoro dell'incisore, che non è sempre l'artista, a volte l'artista realizza il disegno e l'incisore può essere proprio una persona specializzata. Il lavoro è un lavoro molto tecnico, nel senso che lavorano in particolar modo il braccio destro per quanto riguarda l'impugnatura del bulino e il braccio sinistro per quanto riguarda il movimento circolare nel realizzare per esempio questi dettagli qui dell'arcata o comunque tutte le parti più arrotondate delle figure o di qualsiasi cosa che venga disegnata. Per cui in realtà non è il bulino che gira, ma bisogna fare pressione da una parte con la mano destra e dall'altra girare con la sinistra. Cioè è un lavoro davvero quasi geometrico. Il bulino in particolar modo, come in questo caso, questo è solo bulino, ha come risultato un'incisione molto nitida, cioè da dire pulita, con linee molto nette. Questa era, diciamo, la particolarità, nette, incisive, da cui appunto il termine incisione, e continue. In realtà poi c'erano anche altre tecniche, come la punta secca, che però è sempre dal termine dello strumento utilizzato. La punta secca è uno strumento ancora più appuntito e quasi nessun artista era in grado di lavorare solamente a punta secca. Diciamo che uno degli artisti più bravi era Rembrandt, ma era uno strumento che spesso era utilizzato assieme ad altri, per cui bulino, punta secca, acquaforte, oppure bulino e punta secca, oppure acquaforte e punta secca. Perché in realtà questo strumento, la punta secca, che non scalfisce in maniera molto netta la lastra, solleva delle leggere barbe che sono praticamente i riccioli del rame, per lasciare questa impressione di sfumatura, di una lastra, di un disegno più morbido, più vellutato. Il fatto è che però andando a pressare con la, diciamo così, la macchina da pressa il disegno, la lastra di rame, queste barbe andavano ben presto a esaurirsi, per cui non davano più quell'effetto vellutato. Voi immaginate, una lastra non poteva essere utilizzata tantissime volte perché pian piano perdeva lo spessore, perdeva la definizione, un po' come diciamo, le opere, le sculture, quando si realizzava il calco delle sculture, questo non poteva essere utilizzato all'infinito, anche perché in Donatello anche molto spesso si vedono magari quelle che sono le prime opere realizzate da quelle leggermente invece, quelle successive da una stessa calcografia, no? Per cui immaginate, si vedono magari il naso un po' più schiacciato perché perde la definizione. La stessa cosa veniva con le lastre di rame e ancora di più con la punta secca, proprio per questo effetto della barba che andava perdendosi. E infine c'era l'acquaforte, che non è una tecnica di incisione diretta, diciamo, nel senso che l'acquaforte prevede prima di tutto una stesura di un olio, proprio di un olio protettivo sulla lastra di rame. Sull'olio poi, che a volte era anche una cera, veniva inciso, realizzato il disegno, non in profondità sul rame, ma rimaneva superficiale, quindi veniva scalfita la cera per lasciare in luce le parti che sarebbero poi dovute essere quelle in cui mettere l'inchiostro. La lastra veniva successivamente posta all'interno dell'acido nitrico, per cui l'acido andava a scalfire, a corrodere quelle parti lasciate libere dalla cera in cui poi si sarebbe dovuto inserire l'inchiostro. L'acquaforte in particolare permetteva di realizzare tutti quegli effetti di profondità, di chiaroscuro, diciamo che anche questa però veniva utilizzata spesso insieme ad altre tecniche, a volte da sola, a volte per ottenere proprio questo effetto della profondità. Infatti l'altra cosa incredibile, perché se si pensa a un disegno va fatto a mano libera, per cui è più semplice, c'è un movimento diverso, c'è una libertà maggiore. Qui creare la profondità e creare i biancoscuri, chiaroscuri, scusate, era veramente una cosa difficile. Come si faceva? Utilizzando diverse tecniche, per esempio le linee continue, ma anche i reticolati, oppure l'effetto puntinato. Tutti questi effetti lavorati insieme permettevano di creare proprio la profondità piuttosto che i chiariscuri. Non so se è difficile effettivamente un po' come tecnica, però una volta che si capisce si apprezza meglio anche poi quello che si va a vedere, perché immaginatevi proprio questo lavoro. Anche l'artista, per produrre un'opera, doveva lavorare parecchio, molto di più rispetto a un disegno. Ora, le incisioni che noi avevamo in mostra erano tutte prime, seconde e terze tirature. All'inizio ci sono ovviamente le prove, vengono stampate le prime vengono appunto stampate le prime incisioni, sono prove. Poi c'è il buono, diciamo, di stampa, che è un po' la stampa proprio definitiva. E poi ci sono invece le tirature, vengono spesso contraddistinte da 1 di 50, 1 di 100, e da lì si capisce appunto di che stampa stiamo parlando, prima, seconda, terza. Noi avevamo tutte prime, seconde e terze, perché questi collezionisti ci tengono proprio ad avere le più belle, insomma. E questo, vi dicevo, Martin Schongauer è un artista tedesco, uno tra i primi a lavorare appunto con lastre di rame, e lo si utilizza molto nella storia dell'arte per vedere come diversi temi siano girati in Europa e poi stati ripresi anche in altre tecniche. Per esempio, mi sto occupando in questo momento di studiare delle formelle di stufa provenienti dagli scavi altoatesini, e io ritrovo proprio determinati personaggi delle sue incisioni sopra le formelle realizzate o comunque importate in Alto Adige, per cui la stampa e l'incisione era un mezzo di diffusione veramente importante per l'arte in Europa. Permetteva innanzitutto agli artisti di farsi pubblicità, di fare pubblicità ai propri quadri, di promuovere i propri quadri, e poi anche di diffondere delle mode, la cultura del tempo di altri paesi, per esempio dalla Germania all'Italia o dall'Italia alla Germania. Questa, vedete, è un'adorazione dei magi, questa però è un'edizione dell'Ottocento, per cui viene recuperata la lastra e si realizza un'edizione ottocentesca, sempre però una prima tiratura. Dürer guarderà i modi, diciamo, di Martin Schongauer. Tedesco si vede proprio da questi volti un po' legnosi, queste geometrie ancora piuttosto schiacciate, vedete i panneggi, quindi è prettamente gotico, questi panneggi molto acuminati, non c'è ancora quella libertà che invece in Italia abbiamo già verso la fine del 400, basti pensare a Giovanni Bellini a Venezia, quello che viene realizzato proprio in quegli anni in Italia, e sarà Albrecht Dürer a portare proprio il Rinascimento italiano in Germania. Questo è Israel van Meckenem, che è un altro autore tedesco che riprende Martin Schongauer. Molto spesso gli incisori riprendevano altri incisori o altri artisti. Quando volevano copiare un dipinto o un'opera già realizzata, ovviamente cosa accadeva? Loro vedevano il quadro come lo vediamo noi, in questa maniera. Però se volevano riprodurlo identico, dovevano realizzarlo al contrario. Per cui immaginate, perché allora, se io lo realizzo nella stessa direzione e metto sopra il foglio, mi verrà storto. Una volta stampato mi verrà storto, per cui dovevano riprodurlo al contrario se volevano tenerlo uguale, altrimenti potevano riprodurlo comunque così come lo vedevano e ottenere però la versione diciamo distorta dell'immagine, e questo complicava ancora di più il lavoro dell'artista. Qui anche vedete le stesse tecniche di prima, quindi questi panneggi acuminati, il bambino un po' legnoso che sembra un bambolotto, la semplicità anche così del paesaggio o delle murature. Questo era il monogramma dell'artista Martin Schongauer, in questo caso Israel van Meckenem non si firma e mette solo il monogramma di Schongauer. E questo è Albrecht Dürer, e però è una silografia, per cui è realizzato su legno, non su rame. Come vi dicevo, la silografia prevede un'incisione non in profondità ma a rilievo, per cui non si mette l'inchiostro all'interno delle parti scavate dal bulino o dalla punta secca o dalle altre tecniche, ma si realizza semplicemente proprio a rilievo. Monogramma di Albrecht Dürer, famoso, la D inserita nella A. Vedete già la maggiore complessità di un'immagine di questo tipo, la realizza nel 1496, lui poi sarà in Italia, a Venezia, anche nei primi anni del Cinquecento. A Venezia rimarrà molto impressionato dalle opere che venivano realizzate, anche da Marcantonio Raimondi, che è un altro incisore che poi vedremo, e lui appunto importerà in Germania questi nuovi metodi, queste nuove tendenze, modi, modelli culturali che vede in Italia. Qui ancora c'è un po' questa geometria nordica, però guardate già la complessità dei fiori, della natura, chiamata Madonna con le tre lepri, qui la Sacra Famiglia con le tre lepri, è già qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima. E Albrecht Dürer sarà il maestro, diciamo, di tutti poi gli artisti tedeschi che da lui, che lo guarderanno, che prenderanno proprio lui come modello per il Rinascimento tedesco. Questo è un altro artista, un olandese, un fiammingo, Sadeler, di una dinastia. C'erano spesso delle dinastie di incisori, proprio famiglie che nel corso del tempo portavano avanti questo tipo di lavoro. E questa io la trovo meravigliosa, anche questa per la complessità. Guardate, adesso vi farò vedere poi un ingrandimento dove si vedono quanti animali è riuscito a realizzare in primo piano. Vi faccio notare la rana, il granchio, un insetto, la chiocciola, la volpe al guinzaglio, che è il simbolo del maligno ammansito, per cui la Vergine che riuscì ad ammansire la volpe, la libellula, è veramente incredibile, pappagalli, specie anche diverse di uccelli, civetta, gufo, ne ho contati più di 20 solo in questa scena. E se noi pensiamo che ha lavorato questa lastra con il bulino, per cui con la semplice, cioè con l'utilizzo solamente di uno strumento, immaginatevi che lavoro di precisione deve aver fatto per ottenere poi questo risultato, con i pastori qua che giocano, dei pastori che portano degli animali da soma al pascolo, per cui davvero con dettagli sempre più piccoli, è davvero incredibile. Poi comunque rendere anche l'atmosfera, il cielo, io la trovo veramente, era una delle opere forse anche più ammirate in mostra. La riprende da Albrecht Dürer, per cui Albrecht Dürer aveva già realizzato un'incisione di questo tipo, lui la riprende. Ecco, Marcantonio Raimondi è un po' il rivale italiano di Albrecht Dürer, siamo nello stesso momento, negli stessi anni. C'è anche un po' una controversia tra i due su chi realizza prima determinate opere. All'epoca non era facile stabilire chi dei due avesse realizzato prima un'incisione. Fatto sta che entrambi si guardano l'uno con l'altro. Marcantonio Raimondi è bolognese, ma lavorerà tantissimo a Venezia per proprio il mondo della stampa di libri, incisioni, eccetera, e riprende però Albrecht Dürer, riconoscendo anche il grande lavoro del maestro tedesco, e a sua volta il maestro tedesco riconoscerà il lavoro di Marcantonio Raimondi. E questa è una, appunto, con Vergine col Bambino, molto complessa anche in questo caso, con diversi personaggi, e si può già notare come i panneggi diventano in realtà già leggermente più morbidi, 1506, però come effettivamente è un'incisione ripresa da un artista nordico, per cui non ancora, come dicevo, con quell'eleganza, quella morbidezza del Rinascimento italiano. Il Parmigianino è un artista molto complesso, molto particolare, lui realizza queste figure spesso con questi colli molto lunghi. Io trovo che in questa incisione non ci sia nulla di religioso. Se uno non leggesse il titolo, sì, c'è un bambino, però sembra una matrona romana adagiata su un trono con un bellissimo panneggio, un bambino molto in una posa molto lasciva, un bambino molto paffuto, e questa sembrerebbe poter essere la corte. Guardate poi le architetture che nulla hanno a che fare, insomma, così con la religione. È molto particolare, bulino e acquaforte. Qui l'acquaforte la vediamo proprio nella resa più morbida, più diciamo così, queste sfumature del paesaggio, mentre il bulino lo possiamo notare in queste linee più nette con cui realizza invece le figure, e questo è proprio l'effetto di morbidezza che dava invece anche l'acquaforte e la punta secca. Cornelis Cort, lui dunque è un artista olandese che riprende spesso, diciamo, il Dürer e dà avvio proprio a una corrente importante in Olanda di incisori, e soprattutto perché riesce a tradurre finalmente in maniera chiara, molto, diciamo così, simile i metodi italiani, per cui lui guarda molto all'arte rinascimentale. Questo, in realtà, questa è un'incisione di Federico Barocci, che è un artista urbinate, di Urbino. È un artista molto particolare, molto bello, del tardo Rinascimento, un artista molto dolce, molto elegante nelle figure che realizza, e lui lo riprende spesso, Cort lo riprende, e riesce davvero a tradurre finalmente in maniera completa questa eleganza del Rinascimento italiano, per cui guardate i panneggi come diventano morbidi, come diventano così più liberi, e anche il paesaggio è totalmente diverso, non è più quel paesaggio geometrico tedesco. È una scena molto dolce in cui però già si vede l'espressione quasi preoccupata della Vergine, no? Lei non è felice, sa già che qualcosa avverrà. E infatti questo simbolo qua delle ciliegie che vengono date al bambino comunque è già un così prevedere quello che accadrà poi con la crocifissione. Anche qui vi invito a guardare proprio come riesce a rendere l'effetto dell'acqua con queste linee, e questo però è solo lavorata con la tecnica del bulino. Tra l'altro, dico, di Federico Barocci, di questa incisione esiste il quadro alla Pinacoteca Vaticana a Roma, aveva realizzato l'incisione Barocci proprio per promuovere il proprio quadro presso le corti italiane, quindi una sorta di propaganda, diciamo, artistica. E qui avevo la foto invece del quadro che ho fatto, scusate, non è bellissimo, l'ho fatta ai Musei Vaticani, e questa la realizza proprio Barocci, questa è sua e questo è il suo quadro. Praticamente è identica, è la stessa immagine, e qui lui lavora. Qui vediamo le tre tecniche insieme: acquaforte, bulino e punta secca. Dunque, come vi dicevo, l'acquaforte la vediamo nuovamente nello sfondo, in questa resa sfumata dello sfondo. La punta secca e il bulino invece lo possiamo notare nei panneggi. Tra l'altro è una stampa molto bella, un'incisione molto bella, perché si vedono tutti i metodi utilizzati, per cui lui realizza tutte le possibilità, cioè utilizza tutte le possibilità: il reticolato, poi le linee diagonali semplici, il puntinato, quindi sfrutta tutte le tecniche possibili per rendere profondità, per rendere, diciamo, i chiaroscuri. Veramente un'opera molto bella, firmata Federico Barocci, invento, excudit, erano spesso i termini utilizzati, e qui potete vedere il confronto appunto con il quadro. Questa era anche una molto bella, di quelle molto belle che avevamo, e anche questa effettivamente avere un'incisione di Ludovico Carracci in mostra non era cosa da poco. Carracci, come magari qualcuno di voi sicuramente saprà, è uno degli esponenti, uno dei tre esponenti della famiglia dei Carracci. Abbiamo Ludovico, Annibale e Agostino, erano due fratelli e un cugino. Ludovico sarà quello che non si sposterà mai da Bologna, amava molto la sua città, amava riprenderla, amava i paesaggi bolognesi, nasce e muore a Bologna. Gli altri due invece si trasferiscono a Roma, e soprattutto Annibale avrà un grande seguito, una grande fortuna a Roma, ed è un po' il rivale di Caravaggio, che siamo in quel periodo, insomma. Ludovico e gli altri, Annibale, erano esponenti del tardo classicismo, 1580, 1570, eccetera. Caravaggio nasce nel 1571, muore nel 1610, per cui siamo proprio lì con le date, e mentre Caravaggio diciamo rompeva totalmente con la tradizione, per cui immaginatevi questo personaggio che inizia a mettere le figure della strada nei propri quadri, la realtà irrompe proprio nei suoi quadri, abbiamo poi invece dall'altra parte il filone tardo classicista che veniva più apprezzato, perché come sempre, diciamo, chi rompeva con la tradizione era visto un po' in maniera così critica. Se non che oggi forse è conosciuto più Caravaggio che non, o meno, insomma, i Carracci, per quanto siano importantissimi. E qui abbiamo di nuovo un'opera solamente con il bulino. Anche qui, guardate, come quasi sempre la Madonna ha questo volto assorto, preoccupato, in realtà anche Giuseppe. Ma quello che è bello è anche vedere come diversi artisti hanno interpretato l'immagine della Vergine piuttosto che quella di Giuseppe. A volte sono giovani entrambi, a volte lui è visto più anziano, come vi dicevo lei sembra una matrona, qui sembra addirittura una ragazza, per cui insomma anche questo è molto interessante. E qui abbiamo un anonimo, non c'è documentazione, non si sa, sappiamo che è un incisore del 600 che riprende Annibale Carracci, quello appunto che tra i tre si trasferisce a Roma e lavora per esempio alla Farnesina, ed è l'Adorazione dei Pastori. Questa è solamente un'acquaforte. L'acquaforte tra l'altro si capisce insomma quando è un'acquaforte perché ha questi modi anche non definiti, è quasi un disegno in divenire, no? Non è netto, non è dettagliato, sembra proprio qualcosa che deve essere ancora tipo finito e comunque realizzato quasi frettolosamente, con questo tratto frettoloso. Guardate un po' anche la scelta molto diciamo ben riuscita di mettere un tronco in primo piano a dividere la scena in due parti: da una parte il sacro, per cui la Vergine col bambino, Giuseppe e gli angeli, e dall'altra invece il gruppo dei pastori. Quindi c'è un po' questo espediente. Forsterman è un altro di quegli artisti fiamminghi, esponenti appunto dell'arte incisoria, uno dei migliori esponenti, perché le sue incisioni sono di una complessità veramente elevata, soprattutto nella rappresentazione di tessuti. Vedete come riesce a rendere il ricamo. Addirittura qui sembra di poter vedere appunto la consistenza, sentire la consistenza della pelliccia, ma poi anche per esempio i dettagli, no? Questa ciotola con le monete e il manico con delle serpi. Molto bello il bambino che emana luce, che mette la mano sul capo di uno dei re magi, e anche tutte queste bestie e animali qua in primo piano. È un'opera ripresa da Rubens, perché lui lavorava, era uno dei maggiori, diciamo, dei migliori anzi, così, artisti della bottega di Rubens. E di Rubens si vedono proprio questi corpi un po' opulenti e anche soprattutto queste gambe belle muscolose, con tutti si vedono proprio, sono quasi la lavorazione proprio dei nervi, dei muscoli tesi. Ecco qui Rembrandt lo si riconosce perché è così, cioè è qualcosa di non, vedete, non definito. Questo effettivamente sembra quasi un disegno non finito. Qui quasi non si capisce, è un po' una cozzaglia di personaggi, poco definita, e lavora quest'opera, ed è infatti l'unica acquaforte punta secca, se non ricordo male era proprio l'unica, e si vede, cioè manca quel tratto netto tipico invece del bulino, quel tratto definito, netto, incisivo che dà il bulino. Abbiamo invece un tratto totalmente veloce, appunto non definito e sfumato, che dava sia la punta secca sia l'acquaforte. Rembrandt realizzerà tantissime incisioni, è un artista anche lui molto prolifico. E qui questa è carina perché si vede come due artisti differenti hanno declinato lo stesso soggetto. Tra l'altro il soggetto principale, che era un affresco del bolognese Niccolò dell'Abate, non lo possiamo più vedere perché non si è conservato. E invece sappiamo però, diciamo, più o meno come poteva essere guardando le incisioni di questi due artisti. Loro avevano visto questo affresco e Mitelli, bolognese, sempre lui, anche Gandolfi, è un altro esponente di una dinastia di artisti, sempre di Bologna, vedono questo affresco e lo riproducono in periodi diversi, però con delle differenze. Qui compare questa arcata, i personaggi sono spostati, per cui uno lo copia effettivamente dalla parte in cui doveva essere realizzata l'opera, dalla parte giusta, non so quale delle due, non si sa. L'altro invece la copia al contrario, per cui da questa parte Dio arriva da destra verso sinistra, di là arriva da sinistra verso destra. Qua abbiamo queste due donne sulla destra e là le abbiamo sulla sinistra. Queste sono appunto le differenze. Poi anche effettivamente ci sono proprio delle caratteristiche diverse. e però non si sa quale dei due, diciamo, sia quella corretta. Invece questa è proprio la stessa. Abbiamo Malatta, un artista che nasce a Camerano, lavora tantissimo a Roma. Se voi entrate nelle chiese di Roma, molto spesso vi capiterà di vedere Carlo Malatta, un esponente tardo barocco, e realizza questa adorazione dei magi, una solamente acquaforte. Dall'altra parte un incisore anonimo che riprende Malatta, però lo riprende guardandolo così come lo vede, cioè lui lo realizza così come lo vede, e infatti poi la definizione in realtà poi è storta, cioè la stampa finale, l'incisione è storta, per cui lo vediamo dall'altra parte. E Jean Poon, un altro artista sempre fiammingo, e realizza in pandan queste due opere, per cui Adorazione dei pastori e Adorazione dei magi. Anche qui molto bello, cioè sempre questo effetto di luce che riescono a rendere, piuttosto che i dettagli che si possono notare. Sono veramente incisioni molto molto belle, di qualità. E anche questa, perché è di Piranesi, un artista importante veneziano, conosciuto, che riprende un disegno del Guercino che appunto è riconoscibilissimo, cioè si riconosce proprio in questo tratto è tipico del Guercino, e lui lo riesce a rendere in maniera davvero identica, per cui il Guercino lavora sia per linee più nette che per linee meno definite. Questa è forse l'incisione in cui si vede meglio la preoccupazione di Maria per il bambino. Vedete, lui gioca con il San Giovannino e porta già la croce, che sarà il segno appunto di quello che dovrà accadere, e Maria lo sa e lo guarda in maniera protettiva ma anche preoccupata, perché sa che non ci sarà nulla da fare per salvare il figlio. Gandolfi, vi dicevo prima, appunto è sempre una dinastia, anche in questo caso i Gandolfi, di pittori. Tra l'altro, una cosa carina che vi voglio dire, torno un attimo indietro, mi sono dimenticata: quando siamo andati giù a riportare le incisioni, il marito, il proprietario insomma di queste incisioni, ne aveva due copie di questa, una prima e una terza tiratura, e appesa alla parete c'era la prima tiratura, e mi ha detto: Stefania, vai lì e tirala giù, portala a casa. Poi immaginatevi la mia, insomma, questa generosità non è da tutti, anche perché ha un valore di 1.300 euro, per cui insomma non è proprio da tutti regalare un'opera così. Sono stata molto contenta. Ecco, e questo che volevo farvi vedere invece è una tipologia diversa, perché è ottocentesca, però a simboleggiare che comunque anche nell'Ottocento le incisioni vengono riprese in maniera diversa, perché nascendo la fotografia, o meglio i primi daguerrotipi, cosa succede? Le incisioni, cioè, vengono fotografate e riprodotte identiche, quindi riportando il disegno della fotografia identico sulla lastra di rame, per cui non era più il disegno realizzato a mano libera e poi posto sopra la lastra di rame, che comunque aveva delle differenze rispetto al quadro da cui veniva visto. Era proprio il disegno identico, tanto che è possibile scambiarla con l'incisione originale. Questa era realizzata in originale da Andrea Mantegna, viene ripresa da Armand Duran, un francese appunto che utilizza questa tecnica chiamata heliogravure. Ecco, in realtà le incisioni sono 50 nel catalogo, però non volevo, insomma, ne ho portate un po' una serie per farvi vedere le diverse tecniche. E così questa era come abbiamo in realtà allestito la mostra era all'interno di, non del Museo del Tesoro del Duomo, ma nella Sala della Prepositura, che è una sala accanto molto bella, antica, che però è sempre chiusa, e dove loro tengono riunioni, persone del museo, ma anche il prete, il parroco, e abbiamo allestito abbiamo dovuto ovviamente fare attenzione, insomma, agli spazi, perché la sala non era molto grande, per cui abbiamo realizzato questa struttura. C'era anche un presepe in terracotta del 1700, che era meraviglioso davvero, infatti c'è un dettaglio, composto da tre personaggi, e questo apriva un po' la mostra. Guardate che bello anche nella definizione, anche questo aveva un valore molto elevato, se vogliamo appunto parlare di cifre, valeva 30.000 euro, per cui insomma delle opere veramente molto belle. E qui è come abbiamo allestito, utilizzando il telo blu, perché il blu è il colore del manto della Madonna e dopo il Concilio di Trento è proprio il colore canonico, il blu e rosso sono i colori con cui deve essere rappresentata Maria, per cui ci piaceva insomma questa scelta. In fondo avevamo delle ante d'organo dipinte da un artista veronese. Basta, io avrei finito. E se avete piacere di fare qualche domanda, volentieri. Spero sia stato interessante. Mi rendo conto che è difficile spiegare in maniera chiara, diciamo, queste tecniche molto complesse, ma spero di aver gettato un po' di luce, un po' di curiosità anche su questo mondo. Grazie. Queste tecniche qua non erano più usate con qualche strumento, ma io vedo magari su qualche porta, qualche, non so, mobili anche, roba. Sì, sui mobili o su, diciamo, anche le sculture, per esempio, viene utilizzato. Al giorno d'oggi è difficile, ma il niello, che era invece una lega di piombo che veniva inserita, viene inserita nei mobili o proprio come decoro. Però ci sono artisti che utilizzano ancora la tecnica, diciamo, della stampa, delle incisioni. Ovviamente è cambiato il tipo di lavoro, è cambiato il tipo di torchio con cui si stampa. Mi vengono in mente le stampe, le incisioni di Plattner, per dire, che è un artista qua su tirolese. Però ovviamente si è persa tutta quella difficoltà che c'era, diciamo, invece in questo periodo nel lavorare il rame piuttosto che altre opere. Prego. È una spiegazione sua, è piaciuta tantissimo. Grazie. C'è solo un dispiacere. Sì. Ma se la faceva prima della mostra di Bolzano, andavamo in massa a guardarcela sta mostra dopo. Ma in realtà, come l'ho detto, ma lei non c'entra con questo, ma talmente entusiasmo. Ma peccato che non l'abbiamo visto. Le dico la verità, qui abbiamo il nostro grafico Gianni Pozzo e il catalogo, come sempre. È incredibile come si lavori tantissimo, ma si arriva sempre agli ultimi giorni con tutto, l'allestimento, il catalogo del Guercino, cioè, l'abbiamo ricevuto non per colpa di Gianni, ma per colpa ovviamente delle persone che devono scrivere, per cui chi collabora e insomma fai pressione, ma gli articoli non arrivano, il traduttore. Abbiamo ricevuto lo stesso giorno dell'inizio ed è andata benissimo, quest'anno un po' prima, ma effettivamente non siamo riusciti. C'è da dire che molto spesso qui in città non c'è, sì, la pubblicità, quest'anno ne abbiamo fatta davvero di meno rispetto a quella del Guercino, c'è da dire questo, è sempre proporzionale ai soldi che purtroppo si hanno, insomma, o non si hanno. E quindi, insomma, sì, c'è stata meno gente, per cui abbiamo avuto 1 migliaio di visitatori, non tanti, è un peccato. E quindi sì, effettivamente ha ragione, dispiace perché c'è tanta passione dietro. Sì. Scusi, solo una cosa, sì. Il terremoto non ha fatto niente? Il terremoto in questa casa non ha fatto niente. Delle case delle persone che abbiamo conosciuto, tipo il direttore della Pinacoteca, non sono state, diciamo così, colpite. La Pinacoteca del Guercino sì, ma per fortuna tra la prima scossa e la seconda avevano tolto tutte le opere, perché la seconda avrebbe danneggiato tantissimo. Questa famiglia, figli, a chi andrà? Allora, hanno figli ma non sono interessati, come sempre, perché innanzitutto hanno avuto figli da 2 matrimoni separati, ma a parte questo lui ha regalato un quadro del Guercino al figlio e ha scoperto che il figlio ha tentato di rivenderlo attraverso strade. E lei ha una figlia che non ha studiato queste cose, a cui non interessa molto l'arte, per cui effettivamente stanno pensate, di donare tutto alla città di Cento, e però, come sempre, comune, amministrazione, eccetera, fanno fatica, l'amministrazione, la burocrazia si fa fatica, non sono molto, molto interessati a questa cosa. Per cui in realtà cercavano quasi quasi una città che avesse più voglia, più piacere di avere queste opere. Ma i figli possono sempre interessarsene in seguito, magari, sa, con il passare degli anni uno poi capisce le cose. Non lo so, perché sono già figli grandi. Poi loro hanno proprio delle collezioni, per dire, chiuse, cioè questa rimane così adesso. Loro hanno tutto impacchettato, questa è la mostra Mater Salvatoris. Poi hanno la mostra sul vino, poi hanno le incisioni sulla stregoneria, eccetera, che forse verrà fatta a Castel Presole dalla cooperativa, non lo so, perché io poi non ci sarò più. Insomma, per cui immaginatevi, sono dei fondi, cioè già belli catalogati, completi. Ma tipo questa verrà prestata da altri. Volendo sì, è già è lì pronta, sì, è impacchettata. Anche, sì, pensava in un'altra città o... Sì, non sarebbe una... Sì, esatto. Esatto. Una futura scusa al Castel Presole, io adesso sì, come dicevo, sono uscente dalla cooperativa, ma so che si stanno muovendo per farla a Castel Presole, stregoneria, magia, alchimia, soprattutto perché a Presole ci sono stati i roghi delle streghe, per cui verrà un po' così collegata a questo tema. Forse anche questa è quasi sicuramente cavallese. Cavallese, non lo sapevo. Questa è la forza. Verrà collegata alla cosa delle streghe. Sì, esatto. Dov'è l'analogia? No, quella hanno delle stampe sul tema streghe, streghe, stregoneria, alchimia, quindi verrà collegata, diciamo, con i roghi delle streghe, si voleva fare un po' questo collegamento. Perché, con questa raccolta? No, con una che hanno loro, extra. Sì, niente. Prego. Io ero curiosa di sapere il suo percorso di studi, la passione per arrivare a questo, quanti anni ha, tutta la sua storia personale. Sono curiosa. Grazie. Quanti anni ha, non si chiede. Allora, no, beh, io ho 26 anni e... Grazie. Ma questo volevo sapere, tutto il suo personale, lo dica tutto. Grazie. Ma anche dopo che vanno via gli altri, se vuole. Io niente, ho fatto liceo classico e in realtà, devo dire la verità, non ho una famiglia che mi ha spinto a studiare queste cose, è una passione che è nata in me. Soprattutto avevo fatto un mese di studi all'estero in Germania, avevo 16 anni e mi ero resa conto che forse a differenza di altri ragazzi della mia età io andavo a visitare i musei per i fatti miei da sola, per cui, e mi piaceva molto, mi appagava questa cosa. Avevo sempre pensato di fare giurisprudenza e poi sono andata a Trento a seguire una lezione, sono scappata a gambe levate a Bolzano perché ho detto no, non posso fare questo per i successivi anni, non era per me. E quindi ho scelto storia dell'arte, ho scelto conservazione dei beni culturali a Trento, che è una facoltà molto buona, abbiamo professori davvero di alto livello. E lì ho avuto la fortuna, dopo la prima laurea triennale, di pubblicare parte della mia tesi. Col professor Kurzer l'abbiamo presentata qui l'anno scorso. E poi alla magistrale mi laureerò appunto a luglio e anche lì verrà pubblicata la tesi perché è stata inserita in un progetto tra l'Università di Innsbruck, Trento e Bolzano. Sarà sulle formelle di stufa altoatesine provenienti da tutti gli scavi dell'Alto Adige, che sono bellissime, cioè sono davvero delle piccole sculture con immagini religiose, immagini profane. E poi ci sarà probabilmente uno studio delle formelle trentine al Castello del Buon Consiglio con un'equipe di esperti. Io spero che potrebbe diventare un dottorato, diciamo, di ricerca, non lo so. La passione è tanta, le difficoltà anche, nel senso che purtroppo il momento è quello che è. La cultura è un po' l'ultima ruota del carro, e per cui insomma si cerca di fare quello che si può. C'è stato tanto volontariato anche con la cooperativa alla fine, perché in 3 anni questo non è mai stato il mio problema, però obiettivamente a un certo punto bisognerà fare i conti anche con la realtà, perché insomma non si può essere mantenuti a vita, ecco, per cui così. Mi piace molto quello che faccio, io spero di poterlo continuare a fare. Molto bello, molto piacevole. Grazie. Mi piace trasmettere agli altri, spero di lasciare qualcosa, no? Per cui... Ecco, vi ringrazio. Grazie. Grazie.